Demos attese che Firomaco abbandonasse la sua espressione tesa. Noi non possiamo fare un processo contro di te, ma Focione sì. Il mio compagno mi lanciò una rapida occhiata che voleva essere un cenno di affettuoso consenso, ma che a me sembrò una sferzata di fuoco. Tornò a fissare l'uomo. Io riuscirò a scovare la copia che aveva trovato Marpessa, anche senza la chiave che le hai strappato di dosso. E a questo punto comincio ad avere fiducia. Forse le coppie sono più numerose di quanto possiamo immaginare. E tu, Firomaco, non puoi far sparire tutti perché questa faccenda ormai si è allargata a macchia d'olio. Quando avrò in mano quel codice, lo porterò a Focione e lui ti accuserà. Come avvocato avremo Iperide e ad Antino e a Marpessa sarà resa giustizia. Non allentava lo sguardo sul nervoso tormentio delle dita di Firomaco, che avevano preso a scavare nella barba nera, sul mento, fin sul collo. La prostituta sacra con cui ho parlato poco fa mi ha detto che il sacerdote di quel giorno non c'è più. Gli fu tolto l'incarico e partì per non si sa dove. La stessa cosa è accaduta ai due arcieri, non è vero? Chissà in quale miniera sono stati trasferiti. Ma tutto questo non ti salverà, Firomaco. L'uomo attese che Demos avesse finito. Lo fissò a lungo, pensieroso, l'espressione indecifrabile sul volto cupo. Se tutte le chiacchiere che hai spuntato su di me rispondessero a verità, credi che avrei confessato, qui, davanti a tre liberti e a uno straniero residente? Perché sei venuto a parlare con me, Demos? E questa volta il suo sguardo divenne quasi feroce. Per guardarti negli occhi. Ora. Ho la certezza che tutto quello che ho detto è vero e un'ulteriore prova l'avrò proprio in questo momento. Nonostante tutte le accuse che ho sputato su di te, noi quattro adesso ce ne andremo via e tu non ci denuncerai né ci lancerai dietro gli arcieri e i cani molossi a tua disposizione. Perché non vuoi che si parli di questa storia? E così dicendo mi afferrò un braccio e mi guidò verso l'uscita del grande edificio. Eudosso e l'Astenia ci seguirono. Fummo investiti dal clamore della piazza. Il sole era alto e Eudosso ci consigliò di andare a mangiare in una taverna là vicino, dove un obolo bastava per due persone e il cuciniere era uno schiavo persiano che ci avrebbe fatto leccare i baffi. Ero così sconvolta che non riuscii a fare alcun commento. Quando ci fummo seduti nella tana di Teopompo, situata nel vicolo delle Arginuse, poco distante dal porto, solo allora mi decisi a parlare. Demos, puoi dire anche a noi quello che è veramente successo? Gli occhi impenetrabili del mio compagno allentarono la determinazione. Suppongo che Eudosso non sia al corrente di tutta questa storia e si rivolse direttamente a lui. Eudosso, come avrei capito, la faccenda è estremamente seria. E si possono correre dei pericoli per il solo fatto di venire a conoscenza degli avvenimenti. Sono un appassionato di intrighi, sono un matematico, vivo per scoprire ciò che si nasconde. Non solo, ormai agli occhi di Firomaco io so tutto. Per cui raccontatemi ogni cosa, vi prego, e soprattutto ditemi qualcosa di questo codice e di questo grande ordinamento. I suoi occhi neri brillavano di ansia. Mentre mangiavamo una pietanza di pesce piena di spezie piccanti, io e Demos mettemmo al corrente il nostro amico di tutta la storia. Lo scienziato prese a scuotere il capo, a stringere le lunghissime dita a pugno. Leucippo, Democrito, nomi che all'Accademia di Platone non si possono nemmeno pronunciare. E in questo non c'è mistero alcuno. È proibito e basta, non se ne parla. È come se non fossero mai esistiti, e io non ho mai letto nulla di loro. Ma in tutto questo mio peregrinare per il mondo, il loro nome qualche volta l'ho sentito. Oh Zeus, che darei per avere in mano questo grande ordinamento? Mi avete incuriosito, voglio contribuire a risolvere il mistero. Demos, perché hai inventato la storia della terza copia? La mia recita da tragedia con quel maledetto potrebbe essere utile per proteggerti. Probabilmente i fatti si sono svolti come li ho esposti io. Quel bastardo sembrerebbe averlo ammesso col suo atteggiamento. Ma il fatto di avergli fatto intendere che c'è un'altra copia di quel libro allontana un po' la pressione da te, Assiotea. Gli ho fatto immaginare che forse potrebbero essercene tante altre. Gli ho detto e ripetuto che tu non conosci il segreto del libro. Questo era il mio principale scopo. Era importante che lui lo avesse ben chiaro. È inutile che corra il pericolo di ammazzarti, perché tu non sai quello che maledizione c'è scritto in quell'ordinamento. E poi fu l'astenia a voler completare il pensiero del mio compagno. E poi, oltre che inutile, è pericoloso per Firomaco, perché se dovesse succedere qualcosa a te, Assiotea, il tuo Demos andrebbe da lui e lo ammazzerebbe. E credo che Firomaco abbia capito che Demos non scherza. Aguzzò le fessure dei suoi bellissimi occhi azzurri. Demos era serissimo. Perciò, da adesso in poi, proseguiremo a cercare davvero quel codice, la persona che ha cercato di diffonderlo e il guardiano, l'uomo che è pronto a tutto purché il segreto nascosto in quel libro non venga scoperto e divulgato. Non credo che Firomaco sia il guardiano, no, lui è solo al suo servizio. È un sicario ben pagato, ma che crede in quello che fa. Ma potrebbe portarci dal guardiano. E il guardiano vive ad Atene. E dove altrimenti? E frequenta sicuramente un luogo dove è possibile passare inosservati, facendo qualunque cosa, anche la più folle. L'agorà. Ecco, io direi di andare all'agorà, guardarci attorno e farci venire le idee proprio lì. Sì, Demos, così potrò incontrare Ofione, Difilo e Peribea. Girai il capo verso Eudosso, il quale nel frattempo aveva tirato fuori dalla sua bisaccia una delle statuette e se la rimirava imbambolato. Richiamai la sua attenzione. Eudosso, non far caso ai nostri progetti. Io e Demos abbiamo innanzitutto un dovere, sdebitarci con te e con Focione, perché grazie a voi due abbiamo riacquistato la libertà. Noi due siamo a vostra completa disposizione. Dici quello che possiamo fare per te, per favore. Lo studioso distolse definitivamente lo sguardo dalla statuina, cercò i miei occhi. Voi due non siete un debito con nessuno, il problema è un altro, amici miei. Ora siete liberi, ma avete bisogno di un lavoro per vivere. Eudosso, rispose Demos, ci hai detto che ogni giorno devi recarti all'Accademia a piedi, e da qui sono molti stadi. Perché non sei ricco e sei costretto a vivere al Pireo dove gli affitti sono più accessibili alle tue tasche? Permettici di restituirti le dracme che l'astenia ci ha dato. Non se ne parla, amici miei, soprattutto adesso che conosco tutta la vostra storia. Ascolta, Demos, presto potrai sdebitarti accompagnandomi in un viaggio che potrebbe riservare qualche difficoltà. Mi accarezzava con un tocco delicato la statuina. Sempre a caccia di oggetti come quello? Sì e no, amico mio. Queste statuine sono diventate una mania, ma il mio vero lavoro è lo studio, la matematica, l'astronomia. E ultimamente la geografia. Conosco poco la Tracia, devo assolutamente visitare l'Abdera, l'isola di Taso, tutta quella regione, insomma. E il Monte Pangeo, scommetto. Negli occhi di Demos brillò una luce scherzosa. Che c'è di male a fare una capatina alle miniere d'oro del Pangeo? Magari c'è qualche altra statuina sepolta. Sorridendo a sua volta, prese a riavvolgere la piccola figura di marmo nero nel panno. Eudosso, ti ricordo che quelle miniere sono cadute in mano al Macedone. Questo non è un problema. All'Accademia c'è Aristotele che è in ottimi rapporti con Filippo. Riuscirò sicuramente a farmi scrivere una lettera dallo Stagirita. Ripose l'involucro nella bisaccia appoggiata dinanzi a lui. Negli occhi di Demos colsi un guizzo d'attenzione. E quando vorresti partire? Prima dell'inverno. Perché poi la navigazione diventa difficile e ci sono poche ore di luce. Volse il capo verso di me. Sarebbe il caso che venissi anche tu, Assiotea. In Abdera potresti trovare qualcosa di interessante. Una gioia sincera distese tutte le rughe del suo viso scavato, ma dovette accorgersi del mio stupore. Abdera è una piccola città proprio accanto alle miniere d'oro del Pangeo ed è la patria di Protagora e di Democrito. Forse anche di Leucippo. Assiotea, anche se le opere di questi due filosofi scienziati sono proibite nell'Accademia di Platone, anche se qui ad Atene non se ne parla, Leucippo e Democrito sono realmente esistiti. Questo posso assicurartelo. Ho sentito addirittura parlare di scuola abderita. So che una decina d'anni fa Democrito venne anche ad Atene, ma da quel momento scomparve dalla faccia della terra senza lasciare traccia. Partiamo! Prima! Allora, che succede, Eudosso, attorno a tutti questi pensatori? Che accademia è quella di Platone in cui è proibito parlare di altri filosofi? Fissavo sconcertata lo studioso. E Odosso pose una mano sulla mia spalla. Lo vedrai con i tuoi occhi, Assiotea. Oggi stesso parlerò a Platone, è ora che apra le porte a una filosofa. Poi rivolgendosi all'Astenia, anche se con te la strada è stata già tracciata. La mia amica sorrise amaramente, scuotendo il capo e la fluente chioma rossa. Sai benissimo perché mi vedi all'Accademia, conosci il mio lavoro, sono lettera del nipote di Platone, lo sanno anche i muri. L'uomo rimase a bocca aperta. Non io, l'Astenia. Sai che appena finiti i nostri colloqui filosofici mi metto a studiare astri, cartine geografiche, soli e stelle, per poi incamminarmi verso il Pireo prima che annotti. Così ho il pretesto per non partecipare a nessun noioso banchetto. E la fissava incuriosito. Ma ora che me lo dici non mi stupisce più di tanto. Modesto filosofo, scarso matematico, ma almeno Pseusippo è l'unica persona sana e pulita dell'Accademia. L'Astenia esplose in una risata così fresca che ci riconciliò con il mondo intero. Oh, Eudosso, tu sei una persona sana, pulita. Tu, Eudosso di Cnido. Il povero Pseusippo potrebbe essere davvero una brava persona se rinunciasse a vivere all'ombra del grande Platone. Invece, si è messo in testa che vuole diventare il successore dello zio alla guida dell'Accademia. Ma non fa per lui e lo sa, tutti lo sanno. Crede che essere un vero scolarca sia far pagare a tutti gli allievi rette altissime. E rivolgendosi a me: preparati, Assiotea, con l'intercessione di Eudosso e anche con la mia, vedrai che Platone ti concederà di frequentare l'Accademia. Ma con Pseusippo sarà dura. E non riuscì a trattenere un altro sorriso liberatorio. E quanto dovrei pagare, amica mia? Teofrasto, l'allievo più giovane, deve versare nella borsa di Pseusippo 20 dracme al giorno. A te ne chiederà come minimo il doppio, essendo tu la prima donna. E scosse la testa, divertita e addolorata allo stesso tempo. Non so che faccia dovetti fare, ma tutti e tre scoppiarono a ridere. Allora l'Astenia cercò di tranquillizzarmi. Ci penso io, non ti preoccupare, ho una certa influenza su quell'uomo. Come hai potuto capire? E riuscirò a sistemare le cose per una somma modesta che pagherò con le mie esibizioni di flauto. Cercò di rincuorarmi con un altro sorriso. Farò di tutto per essere al tuo fianco, per non farti sentire sola. Tu, piuttosto, preparati a tener testa al maestro. Eudosso si volse verso di me, mi scrutò con occhi innocenti. Ragazza mia, che vuoi combinare? Devo cercare il grande ordinamento, avere notizie su Leucippo e Democrito. Su Antifonte, sull'anima, sugli dèi, sulla schiavitù e soprattutto, Platone deve spiegarmi perché la donna è inferiore all'uomo per natura. Lo studioso restò a bocca aperta, impietrito, poi cominciò a capire. E magari non credi nemmeno agli dèi e sei contraria anche alla schiavitù. E magari ritieni che voi donne abbiate un'anima come noi uomini. Oh, nuvola innocente. E tu vorresti andare all'Accademia di Platone per sfidare quella gente? Mi fissava spaventato con un'espressione di commiserazione. Assiotea, ascoltami bene. All'Accademia c'è gente così potente che il Macedone sta facendo di tutto per farla pendere dalla sua parte. E continuava a scuotere il capo. Eubulo è nient'altro che un modesto amministratore delle finanze, così come la Pizia di Delfi. Non è altro che una teatrante che pronuncia oracoli e sentenze già scritte e decise in altri luoghi. Chi muove l'Ellade, chi crea il pensiero di un popolo, sono i filosofi vincitori, Platone, Aristotele. In questo momento gli uomini più potenti del mondo. E sembrò che il peso di quei pensieri lo schiacciasse perché le spalle cadenti si incurvarono ancora di più. Fu Demos a chiedere quello che io e l'Astenia avevamo sulla punta della lingua. Eudosso. E allora tu che ci fai lì? Lo scienziato volse il capo verso il mio compagno, poi tornò a fissarmi negli occhi. Ma ci sono anche ottimi studiosi e ci vado d'accordo. Hanno fiducia in me e mi apprezzano. Platone addirittura mi ha lasciato dirigere l'Accademia durante i suoi viaggi in Trinacria. E poi comincio a sentirmi un po' stanco. In tutta la vita non ho fatto altro che viaggiare, viaggiare. Sono stato a Siracusa, Taranto, Crotone, in Egitto, in Oriente. L'Ellade l'ho girata quasi tutta, ma ora vorrei stabilirmi all'Accademia. Platone vecchio, Prima o poi ci lascerà e forse gli allievi me leggeranno scolarca. Credo che abbiano bisogno di una persona semplice come me. Inoltre sono esentato dal pagare la quota, anzi Platone mi ha affidato un compito e se riesco a realizzarlo avrò come ricompensa parecchi talenti. Per ultimo tenete presente che all'Accademia studia un certo Eraclite Pontico, il pupillo di Platone, il miglior astronomo e matematico che abbia mai incontrato. Lavoro quasi sempre con lui, ha idee geniali. Assieme faremo grandi cose. Mi fissava con un'espressione dolcissima dipinta sul volto. E tu che vuoi fare, Assiotea? La rivoluzione? Cambiare le loro idee? Non so nemmeno se Platone mi permetterà di assistere a qualche lezione. Ma se mi offrirà questa possibilità, allora dovrà spiegarmi parecchie cose. E non distoglievo lo sguardo dai suoi occhi buoni. Eudosso poggiò le palme delle sue lunghe mani sul tavolo, si alzò in piedi, si mise la bisaccia al collo. E allora al lavoro. Tu e Demos dovete recarvi da Ofione e Focione. Io e l'Astenia ce ne andiamo all'Accademia e parliamo di te. Se riusciamo ad ottenere il consenso di Platone, domani, qualche clessidra dopo l'alba, ci vediamo alla libreria dell'Agorà. Ti accompagnerò io nella tana del leone. E fece un segno al proprietario della taverna, il quale rifiutò gli oboli che Demos voleva versargli. Mentre uscivamo, l'Astenia mi prese sotto braccio. Ce la metteremo tutta per convincere Platone, ma tu devi aiutarci, mica puoi presentarti vestita così, amica mia. All'Accademia ci sono le regole: tonaca color porpora, capelli lunghi e scarmigliati e soprattutto un contegno bizzarro, strano, come quello di Eudosso. Mi spiace, l'Astenia. Io andrò vestita così, non mi farò ricrescere i capelli, metterò una fascia stretta sul petto, vestirò come un uomo. Devono sapere che io sono donna non per il mio aspetto, ma per come ragiono. Eudosso aveva preso a scuotere il capo con un'espressione di stupore e di incredulità dipinta sul volto consumato dalle rughe, ma che conservava sempre quell'aria da bambino innocente. Stavamo per avviarci nella direzione delle lunghe mura quando Demo si arrestò. Allora, Eudosso, ho tutto il tempo per organizzare il viaggio di Abdera. E con un'espressione indecifrabile negli occhi, posso tenere le dracme che mi ha dato l'Astenia? Posso davvero? Grazie, amico mio. Le userò per il riscatto di un altro schiavo. Mi strinse fra le braccia e vedendo che non capivo, sorridendo amaramente, mi disse: io non potrò mai essere padre di nessun figlio, ma liberare l'uomo bambino che tu vuoi e portartelo qui. Questo sì che posso farlo. Mi sfiorò la fronte con un bacio rabbioso e si separò da me. Unai, tu davvero, davvero andrai a liberarlo? Un'ondata d'emozione mi assalì. Preferisco partire subito, tanto per una quindicina di giorni qui ad Atene è tutto fermo, ci sono le feste. Prendo la prima nave che parte per Corinto. E fece per separarsi da me, ma non glielo permisi. Lo trattenni tra le mie braccia mentre i suoi occhi ardevano d'amore per me, un amore che non riusciva a celare in nessun modo. Demos, vi aspetto da Ofione, te e Unai. Oh, Demos, non ti sarò mai grata abbastanza per questo mai. Lo strinsi ancora a me, sentii la grossa cintura di cuoio sul suo ventre, la cintura che gli aveva regalato Telemaco all'Aurio prima di partire. Stai attento, ti prego. Oggi sei stato spietato con Firomaco. Il mio compagno si separò da me, negli occhi un ultimo lampo di ineguagliabile intensità, e prese a incamminarsi verso il porto che brulicava di gente in attesa della partenza delle regate per le Panatene. Non si volse mai, neanche quando la folla sotto i portici lo inghiottì. L'Astenia mi prese sotto braccio e Eudosso si mise al nostro fianco e ci avviammo verso Atene, sotto il sole cocente. Capitolo 4. Uno scarto della natura. Fervevano i preparativi delle piccole Panatene. Nessuna città aveva invaso la piazza. Mancavano meno di 2 settimane al 28 di Ecatombeone, giorno della processione finale. Inoltre erano in pieno svolgimento i tanti concorsi, in particolare quelli musicali di danza. Attraversai quella fiumana festosa con un senso d'oppressione, di cui conoscevo fin troppo bene la causa: la solitudine. Avrei voluto al mio fianco mia madre, Marpessa e Demos, Mi sentivo felice solo quando riuscivo a dividere con altri i miei momenti di gioia. Orfione doveva intuire i miei pensieri. Cercò di distrarmi, raccontandomi per l'ennesima volta che avevo parlato con Racio di Cirene, il venditore ambulante di papiri, ma che finora non c'era novità a proposito del grande ordinamento. Iperide era passato da lui ogni giorno per parlare di me e molti copisti erano andati da lui a chiedere le mie notizie. E poi a turno, Difilo e Peribea, per vedere quello che si poteva fare per me. Affrettò il passo e raggiungemmo in breve la libreria. Una volta spalancata la porta, lo aiutai a schiudere una delle finestre in alto. Respirando la polvere dei papiri, raggiunsi Ofione, che nel frattempo si era seduto davanti al tavolo, situato quasi all'entrata della libreria. Vieni qui accanto a me, figlia mia. La stenia non tarderà a venire. Ti prego, se veramente sei decisa a entrare nella tana dei leoni, cerca di non indispettirli, sii prudente. I grossi occhi azzurri mi fissavano con estrema dolcezza. Come posso aver indispettito i signori filosofi se non ci ho mai parlato? Il vecchio scuoteva il capo. Oltre 8.000 cittadini sentirono all'apnice il tuo attacco a Platone. Tutta la città ne ha parlato. Sei stata sulla bocca di tutti e la voce è giunta all'Accademia. La bellissima figura di Lastenia attraversò la porta. Ofione restò in contemplazione mentre lei ci raggiungeva col suo incedere flessuoso, le guance accaldate. Aveva corso, abbandonando il coro delle danzatrici con cui doveva partecipare al concorso pochi giorni dopo, proprio lì sotto all'agorà. Raggiungemmo le colonne di marmo bianco del portico Pocile, situato quasi di fronte a quello reale. Il soffitto era pieno di dipinti colorati, mari, laghi, boschi, uccelli, senza guerre né dei né leggi. Questo era il portico dei filosofi. Proprio quando la mia mente richiamava il ricordo di quella sera di pioggia, della mia fuga da Iperide, ci imbattemmo in audosso, intento a parlare con Diogene, il vecchio che aveva ricevuto un pugno in pieno volto dal riccone. Eudosso ci dava le spalle. Il vecchio fece scivolare gli occhi sulla stenia, poi smise di parlare, scrutandomi con curiosità mentre lo sguardo gli si accendeva. Poi, con una mano levata in alto, schioccò le dita. Finalmente ti rivedo, ma non ricordo il tuo nome. Fu Eudosso, dopo averci lanciato un sorriso, a dirglielo. Diogene, scuotendo la chioma sudicia con sguardo incredulo: La ragazza dell'apnice, Assiotea. Rallegrati, sii felice, l'unico essere umano che corsa ad aiutarmi la sera che quel bastardo di Midia mi colpì a tradimento. Ora capisco perché non sei venuta al Cinosarge. E strinse le mie mani tra le sue. Erano sporche, scheletriche, eppure trasmettevano energia. Ragazza, sei diventata famosa. I ricchi ti temono, hanno paura che tu possa portargli via i loro schiavi, mentre per questi tu rappresenti la speranza. Diogene. Sarebbe bellissimo se fosse vero. Vorrebbe dire che il seme è stato gettato. Ma ho paura che la strada da percorrere sia ancora lunga. Finché i filosofi considereranno naturale la schiavitù, nulla potrà cambiare. Ma i filosofi a cui ti riferisci sono Platone, Aristotele e la sua cerchia, tranne il nostro amico Eudosso. Io, per esempio, pensatore filosofo, sono con te, con Iperide. E strinse i pugni in un chiaro segno di incoraggiamento. Perdonami, Diogene, ma i potenti delle Elade a te non danno ascolto. Gli occhi del filosofo si incupirono. Purtroppo hai ragione. Il destino di Atene sembra legato agli olivi sacri e alle olive che il maestro mangia dalla mattina alla sera. Ma credo che sia importante per te sapere che sotto il portico Pocile passeggiano tanti altri filosofi. Assiotea vuol parlare con Platone, con Aristotele, disse l'Astenia con un velo di tristezza sul volto. Vuole frequentare l'Accademia. Diogene mi fissò accigliato. Sei pazza. A che scopo? Vorrei che mutassero il loro modo di pensare. Mi scrutò a lungo. Io posso cambiare il mio pensiero, perché sono spinto solo dall'amore per la verità. Nessuno mi può comprare, perché ho rinunciato ai beni materiali, a tutto. Possiedo un solo bene, il mio pensiero, la mia mente. Ma Platone e Aristotele no. Loro hanno un prezzo e non solo materiale, sono ambiziosi, per quei due il dominio delle altre menti è fonte di vita. Quei due non sono al servizio dei potenti, sono essi stessi due potenti, perché sanno di poter controllare il modo di pensare e di vivere di un popolo. Il tono della sua voce da sonora era diventato secco. Assiotea, quei due non hanno una morale o un'etica, sono due macchine da guerra. Tutto ciò che dicono e che fanno è indirizzato a un unico scopo, il dominio. Ecco perché ho detto che sei pazza. Forse hai ragione, ma non sono sola. Accanto a me c'è l'astenia, c'è Odosso, che forse non è pazzo come me, ma il suo cuore è puro come il tuo. E qui ad Atene, fra i potenti, ci sono uomini puri come te, Iperide, Focione. Poi c'è Ofione. E fra poco accanto a me avrò altri due uomini come te, Demos e Unai. Diogene, credo che sia necessario sfruttare questo momento, potrebbe non ripresentarsi mai più. Assieme a un codazzo di gente che lo circondava, avanzava verso di noi un uomo elegantemente vestito, alto, sanguigni occhi neri. Lo riconobbi subito, Midia, il riccone che aveva malmenato Diogene. Anche il vecchio filosofo se ne accorse. Rapido come un fulmine, si sfilò la striscia di cuoio dalla fronte, la volse attorno a una mano e quando Midia ci affiancò, gli si parò davanti e gli sferrò un pugno sulla bocca con una tale violenza che il riccone fu sul punto di cadere all'indietro, sostenuto dal codazzo inorridito. Midia grugnì nel rendersi conto, dalle sue mani imbrattate di rosso, che da un labbro spaccato sgorgava sangue copioso. La voce sonora di Diogene sovrastò le menti di Midia. Ora puoi anche passare dal mio banchiere, bastardo. C'è un credito di 3.000 dracme per te. Midia si passò un'altra volta il braccio sulla bocca. Il sangue continuava a colare. Sporco pezzente. Sei stato tu a non recarti dal mio banchiere. Io le 3.000 dracme te le davo senza problemi, maledetto. La soddisfazione di quel pugno che ti sferrai valeva tutto quel denaro. Perché ci hai messo tanto tempo per farti giustizia, feccia umana? Perché mi mancava la speranza. Mi dicevo che anche se mi facevo giustizia non sarebbe servito a nulla. Nessuno sarebbe mai riuscito a estirpare la razza bastarda a cui appartieni. Ma oggi una fanciulla pura mi ha dato quella speranza. Fissava Midia con una tale fierezza che girò lo sguardo malevolo dell'uomo con la bocca imbrattata di sangue.